Lei usasse una moda in detrazione, non era mai fuori le righe, non era mai esageratamente vistosa, perché poi lei aveva una seduttività, aveva un suo modo di essere anche sexy, se vogliamo, rimanendo sempre molto elegante e molto basic nel suo modo di porsi, colori tenui, tessuti giusti, anche le proporzioni degli abiti, erano sempre attente a non scoprire troppo, rimanendo sempre una donna molto fascinosa. E questa secondo me è stata proprio la sua grande caratteristica che l'ha accompagnata per tutta la vita. Ecco, però andiamo un po' nel passato. A ritroso. Cioè, andiamo a ritroso, vediamo qual era il suo look proprio nei primi anni della sua carriera. Allora, nei primi anni della sua carriera, Virnalisi praticamente era la tipica... Intanto c'è da dire che lei nasce non solo come attrice, ma anche come modella. A 17 anni, infatti, calcava già le... perché, insomma, la sua bellezza la richiamava. È stata una ragazza di grande talento ed è stata una ragazza che ha seguito le mode proprio degli anni 50, 60 e 70, come vediamo in queste immagini. Sì. Quindi, diciamo, sceglieva dei capi raffinati intorno agli anni 50. Era una ragazzina fresca, frizzante, giovane, e poi indossava spesso i pantaloni, perché comunque, insomma, nonostante in quegli anni andassero gonne, abitini, eccetera, lei è stata sempre un po' rivoluzionaria. Gli